Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata, la prima della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, insomma, ci si sta avvicinando alle elezioni regionali, allora parliamo di una cosa che rappresenta l'80% della spesa regionale, l'80% del budget di una regione e tra l'altro e rappresenta anche il 76% della spesa pubblica complessiva, quanto è coperto. Stiamo parlando chiaramente della spesa sanitaria. Allora, la spesa pubblica copre il 76% di tutta la spesa sanitaria complessiva, ma soprattutto a noi interessa perché, visto che l'80% del budget di una regione se ne va per i servizi sanitari che la legge attribuisce alle regioni, oggi, su Sole 24 Ore, un rapporto certifica come anche nel 2009 il rosso, il deficit complessivo di tutte le regioni, tra quanto hanno ricevuto e quanto hanno speso, è di 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi se si includono le quote che sono state ripianate poi a livello locale con tassazione locale, IRAP, ma non solo. Il dato così è un dato che chiaramente non piace. Va anche detto che il deficit delle spese delle regioni era di 6 miliardi e mezzo nel 2004, è sceso a 4,4 nel 2005, è riaumentato a 5,5 nel 2006, nel 2007 è sceso a 3,2, nel 2008 è sceso a 3,4 e appunto qua siamo di nuovo a 3 miliardi e 4. Non c'è un peggioramento del deficit sanitario, va detto, lo confermano queste cifre, non c'è un miglioramento. No, c'è invece un miglioramento in alcune regioni che comunque rappresentano la maggior parte della spesa sanitaria, del deficit sanitario, scusatemi, e mi riferisco a Lazio, Sicilia, Sardegna, Puglia in primo luogo, ma anche la Liguria. Un miglioramento soprattutto abbiamo visto in Sicilia e in Campania, c'è stato un miglioramento nel deficit anche nel Lazio. Il vero tema però è il servizio, la sanità non può essere considerata solo un costo e allora lì esistono indicatori, per esempio l'indicatore di attrazione sanitaria che va a misurare quanti pazienti se ne vanno da una regione verso un'altra. E la differenza chiaramente farebbe zero se un paziente andasse e un altro arrivasse da un'altra regione. Ci sono regioni che invece hanno un alto attivo, hanno più pazienti da altre regioni di quanti vadano via. Il caso su tutti è Lombardia, ma non solo, e l'Emilia Romagna. Ci sono regioni che invece hanno una variazione negativa, cioè sono molto di più le persone che se ne vanno di quelle che vengono per farsi curare in quella regione. E la Calabria e la Sicilia sono due casi eclatanti, ma anche il Piemonte ha un tasso negativo. Per cui parleremo di sanità diffusamente non solo come costi e come deficit, ma anche come servizi resi, perché la cosa più imbarazzante, lo dico senza mezzi termini, è che le regioni che sforano il tetto del deficit spesso, non sempre, ma spesso, non hanno il servizio migliore. Non che fosse, voglio dire, non si può parlare di giustificazione, però sarebbe già qualcosa se a fronte di tante uscite tu avessi un servizio eccellente. Purtroppo chi spende troppo spende anche male. Poi parleremo di borsa, meno 0,2% Milano, invariata Parigi, invariata Francoforte, Londra meno 0,1%, l'America è positiva di uno 0,3%, l'euro è debole, è molto debole nei confronti non tanto del dollaro, siamo 1,3547, ma nei confronti del franco svizzero. E quindi a 1,43. E tra i titoli oggi Popolare di Milano perde l'1,80, Mediolanum 1,60, Generali meno 1,5 come Intesa, e il Monte dei Paschi perde l'1,3, Fiat l'1%, Ansaldo cede lo 0,90. Chi guadagna? Pirelli più 2,5, Ubibanca più 2,1, Geox più 1,90, Campari più 1,5, Estimicro Electronics più 1,1, Finmeccanica più 0,90%. Parleremo anche di una banca che si apre ai clienti extracomunitari, ai prestiti per gli extracomunitari, e parleremo anche della riforma sanitaria di Obama. Lo spunto c'è nato proprio da questo, obiettivamente oggi tutti i giornali la riportano, ne avete letto e anche sentito, però Obama fa passare una riforma che estende agli americani, a chi non aveva la copertura sanitaria, da noi si combatte con un deficit sanitario che continua, non solo cresce, ma continua a non diminuire, mettiamola così. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda il petrolio, apre a 78,90 dollari al barile, un calo quindi sotto gli 80 dollari al barile del 2,2%. L'euro è, ripeto, crollato pochi minuti fa ai minimi storici nei confronti del franco svizzero, a quota 1,4316. Vorremmo capire perché. Chiaro che il dollaro in questo momento non è ancora così non ha questa capacità di attrattiva, però insomma non è bello vedere che di nuovo si spinge sull'euro, in questo caso a vantaggio del franco svizzero. Tra l'altro anche la sterlina è calata sotto 1,5 dollari e sotto i 90 pence, a 89 pence nei confronti dell'euro, dopo che la Banca d'Inghilterra ha ammonito che c'è in Gran Bretagna il rischio di una ricaduta in recessione per appunto il Regno Unito. Ancora Trichet, presidente della Banca Centrale Europea, dice i prestiti delle banche e le imprese sono ancora troppo pochi, vanno rafforzati, la quantità, l'ammontare è ancora debole. E poi una notizia che ha fatto un po' gelare il sangue nelle vene in Germania. Secondo quanto riportato dal quotidiano Die Welt, l'indebitamento pubblico tedesco sarebbe ben più grave di quanto temuto. Già la Germania ha un deficit al 5% del PIL nel 2009. Praticamente l'esposizione sarebbe di tre volte superiore, a 6,2 miliardi rispetto alle statistiche ufficiali, se si somma praticamente, oltre al debito dello Stato federale, quello della regione, dei comuni e i debiti nascosti nel nostro Stato sociale. La Banca Centrale Greca invece ha certificato che il deficit greco è al 13% del PIL, incredibile, nel 2009, e ha anche detto che il PIL greco segnerà una contrazione del 2% anche nel 2010. Tempi molto molto duri per la Grecia, e sperando appunto che quanto fatto permetta alla Grecia di uscire dalla situazione in cui si è ficcata, anche se oggi il vice premier greco Pangalos ha detto che molte banche tedesche stanno lucrando sui problemi della Grecia, mentre i paesi dell'Europa meridionale soffrono la caduta dell'euro, le esportazioni tedesche ci stanno guadagnando. E poi il presidente della Commissione Europea Emmanuel Barroso si è detto fiducioso di riuscire a trovare un accordo al vertice europeo di questa settimana proprio sul tipo di aiuti da dare alla Grecia. È in contatto regolare, detto Barroso, con il cancelliere tedesco Angela Merkel. Però poi è arrivato subito dopo il presidente dell'Eurogruppo Juncker, che ha detto: ma non sono sicuro che la decisione verrà presa questa settimana. Noi suggeriamo nessuna fretta, tanto insomma, se è avanti così, la Grecia o scompare o ce la fa da sola. Veramente la reazione europea lascia perplessi quanto a tempi, non tanto quanto a contenuti, i tempi. Allora, il saldo commerciale europeo dell'Italia con i paesi extraeuropei è meno 1,6 miliardi a febbraio, in peggioramento anche rispetto a febbraio del 2009, però le esportazioni italiane sono aumentate fuori dall'Europa del 2,3%. E adesso entriamo, diciamo, nel tema della riforma sanitaria italiana per quello che riguarda il tema di apertura. E ci entriamo, la prendiamo un po' larga, la prendiamo dalle spese per le auto blu. Allora, la spesa per le auto blu italiane, vi ricordate il periodo della casta in cui si parlava tanto della politica, come i costi della politica, poi è scomparso, no, negli ultimi due anni. Comunque la Corte dei Conti ha certificato praticamente che è possibile risparmiare tantissimo dell'auto blu. Allora, la spesa complessiva della pubblica amministrazione per le auto blu è di 1 miliardo e 200 milioni. E la Corte dei Conti ha rinnovato il suo intero autoparco acquisendo autovetture a noleggio, come fanno ormai molte amministrazioni centrali e regionali, ma con una novità: ha stabilito il chilometraggio annuo, che deve comprendere anche il carburante, facilmente calcolabile prima del noleggio, e il chilometraggio stabilito. Vabbè, ha così dimostrato che si possono ridurre alla metà i costi di percorrenza delle auto blu, si è passati dai 14 euro per 100 km agli attuali 7 euro per 100 km. Se tanto mi dà tanto, da 1,2 miliardi si può scendere a 600 milioni, 600 milioni in questo momento potrebbero essere usati per gli incentivi, per il settore in difficoltà, per aumentare la cassa integrazione, ma soprattutto anche per il settore in difficoltà, visto che complessivamente ne hanno stanziati 300. Basta rinunciare, non dico agli auto blu, ma ai costi per chilometraggio delle auto blu. E da lì passiamo alla riforma alla sanità italiana. Mentre in America passa la riforma della sanità, ma ne parleremo più avanti, da noi si scopre che il buco accumulato dalle 13 regioni, Lazio e regioni del sud in testa, Campania e Sicilia, anche la Liguria, devo dire, non scherza, è di 3 miliardi e 400 milioni. Praticamente si arriva a 4 miliardi se si aggiungono i 750 milioni di euro ripianati utilizzando i bilanci regionali. L'ho anticipato oggi il Sole 24 Ore, noi su questo restiamo. Il sud e il Lazio praticamente hanno da soli di 3,4 miliardi, ne fanno 3 miliardi e 100. 1 miliardo e 3 il Lazio di deficit. Poi la Campania ha 725 milioni, l'Abruzzo come deficit a 31 milioni, ma soprattutto la Sicilia ne fa altri 237 milioni, la Calabria 200 milioni, la Puglia 282 milioni. Visto che stiamo arrivando alle elezioni regionali, questa è la prima arma che hanno in mano le regioni: l'80% del loro bilancio viene speso in sanità. E allora al 349-238-6666 i messaggi, partiamo con il primo tema. Facciamo anche l'elenco però delle regioni con i conti in ordine, addirittura alcune hanno un attivo di bilancio: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli, Toscana, Umbria, Marche e la provincia di Bolzano. Sono sotto, e devo dire il Veneto non di poco, di 100 milioni il Veneto, di 97 milioni la Liguria, parlando del nord sempre, di poco la provincia di Trento, 8 milioni. Però insomma, questo è un problema di gestione del bilancio, sappiamo che è il primo problema. Detto ciò, non vi è purtroppo nessun collegamento tra quanto sfora una regione e invece il servizio che rende. Poi arriveremo agli ospedali eclatanti, i casi eclatanti degli ospedali, come li chiamiamo noi, insomma, Gioia Tauro, Locri, la SL di Reggio Calabria, la Sicilia, Palermo, purtroppo sono quasi tutte in queste regioni. Ma andiamo anche a ragionare sugli indicatori che vanno a fotografare il servizio, non solo sul deficit accumulato. Si potrebbe infatti obiettare, ma insomma, se uno spende tanto, ma perché nel caso della Liguria si dice ci sono molti anziani che abitano in Liguria, o comunque il servizio fosse buono non sarebbe giustificabile, ma comunque avrebbe una sua spiegazione. E invece non è così. Tra l'altro, complessivamente l'Italia non spende più di altri paesi per la sanità. Non spende più di altri paesi perché la spesa sanitaria per noi vale il 6,7% del PIL, la media europea è del 6,4%, la Francia è al 7,3%, la Germania al 7%, la Spagna al 5,5%. Noi spendiamo appunto un 6,7 che è leggermente sopra. Il problema è il servizio offerto. Allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'economista Luca Ricolfi, che insegna all'Università di Torino e ha appena scritto un libro, Il sacco del Nord, saggio sulla giustizia sociale, casa editrice Guerini Associati. Buonasera professore. Buonasera, la correggo solo, non sono economista ma sociologo, comunque va bene. Ha ragione, sociologo. Non mettere a nessuno. No, ci mancherebbe. Allora, voi, dico voi, ma lei e altri colleghi sulla stampa di Torino nel corso del fine settimana, ieri per la precisione, avete presentato un rapporto su i vari indicatori per capire il servizio sanitario. Cioè, il Sole 24 Ore oggi ha dato un'anticipazione del deficit, i dati li ho ricordati io, siamo sempre a 3 miliardi e 4 complessivi, ma esistono degli indicatori per capire se, oltre che spendere male, magari il servizio resta buono, oppure si spende male con un servizio cattivo. Purtroppo, dico io, chi spende male di solito dà anche un servizio cattivo. Ma insomma, cos'è l'indicatore di attrazione sanitaria? Ma l'indicatore di attrazione sanitaria è secondo me il più robusto che si può utilizzare, ed è il rapporto fra i pazienti che una regione riceve dalle altre regioni e i pazienti invece che scappano dalla regione diretti verso altre. Quando questo rapporto è maggiore di 1 vuol dire che la regione attrae pazienti, quando il rapporto è minore di 1 vuol dire che la regione fa scappare i propri pazienti. E questo è robusto perché vuol dire che la gente vota in un certo senso con i piedi, cioè muovendosi di qua e di là, dando quindi dei segnali molto precisi di quali sono i posti attrattivi e quali sono i posti invece che occorre evitare accuratamente perché la sanità non funziona bene. Allora, da questo punto di vista, la regione in testa è l'Emilia Romagna e anche la Lombardia, 2,28, vuol dire che per ogni paziente che se ne vada lì per andare a farsi curare da un'altra parte ce ne sono 2,28, cioè la differenza fa 2,28 tra chi va via e chi viene invece? No, è il rapporto, nel senso che diciamo, è un rapporto, perfetto. Fatti 100 i pazienti che scappano, ce ne sono 220-230 che arrivano. Ok, chiaro. È decisamente favorevole. Emilia Romagna e Lombardia, poi la Toscana 170, per cui fatti 100 quelli che se ne vanno a farsi curare da un'altra parte, 170 vengono a farsi curare in Toscana. Poi il Veneto 145, anche qui per 100 che se ne vanno a farsi curare fuori, 145 vengono a farsi curare in Veneto, Lazio 136 e l'Umbria 122. Chi fugge? Allora, la Liguria ha un rapporto di 92, cioè per 100 che se ne vanno solo 92 vengono a farsi curare lì. Sì, la Liguria non funziona bene come altre regioni, però bisogna considerare che c'è anche un altro indicatore importante, che è la soddisfazione. Ecco, lì volevo arrivare, infatti. Per quanto riguarda la soddisfazione, la Liguria non è messa affatto male, è messa tra le regioni migliori. E quindi bisogna combinare un po' i due indici, tenere conto sia della mobilità che della soddisfazione. Adesso ci arrivavo, perché ho altri tre indici per lei, la soddisfazione, chi ha saputo comunque ridurre la spesa, perché alcune regioni partivano dai buchi stratosferici, va riconosciuto per esempio la Sicilia, se non ricordo male, di aver ridotto la spesa, ridotto il deficit e poi anche il rapporto costi ricavi. Volevo finire con l'attrattività. Dicevo, Liguria ha un rapporto negativo e poi tutte le regioni del Mezzogiorno. Praticamente la Basilicata è quella messa meglio, c'è un rapporto di 55, per 55 che arrivano 100 se ne vanno a farsi curare fuori. La Puglia è a 39, la Campania è a 26, cioè per 26 che arrivano a farsi curare in Campania 100 se ne vanno fuori. E poi arriviamo alla Calabria a 15, a cui spetta la maglia nera. Devo dire che alla Calabria spetta la maglia nera su quasi tutto nella sanità, e vedere che poi ha un buco di 200 milioni solo nel 2009 ci fa dire appunto che non spendere male significa anche dare un cattivo servizio. Veniamo al secondo indice, così che lei anticipava, e cioè l'indice di soddisfazione. Prego, professore. Sì, questo è un altro indice che è molto correlato con il primo, però che dà delle graduatorie leggermente diverse. Per esempio, sull'indice di soddisfazione, se ricordo bene, perché vado a memoria, la Lombardia è migliorata, non l'aveva altissimo a livello dell'indice di attrazione qualche anno fa, negli ultimi anni. Sì, è all'89% di soddisfatti la Lombardia. E credo che insieme alla Liguria sia una delle... Sì, anche la Puglia comunque ha un livello molto Puglia, alto. La Puglia è un caso interessante, sì, perché noi abbiamo delle regioni che potremmo chiamare eccezione, cioè sono delle regioni meridionali che funzionano relativamente bene, almeno su alcuni indici, la Puglia è una di queste, non funziona bene sul disavanzo, ma funziona bene sulla soddisfazione, e altre regioni settentrionali come la Liguria che funzionano piuttosto male, soprattutto in termini di attrazione. Quindi c'è questa regola generale per cui al nord le cose vanno meglio, nel centro-nord, anche nelle regioni rosse, e al sud vanno peggio, però alcune regioni fanno eccezione. Quindi come indice di soddisfazione la Puglia ce l'ha molto alto, ce l'ha anche alto la Liguria. Chi troviamo all'ultimo posto? Intanto come dinamiche è andata molto avanti la Campania, ha avuto un netto miglioramento su questo indice, le Marche hanno avuto un netto calo, meno 9%, ma dicevo chi è messa male come soddisfazione è soprattutto la Basilicata, se non ricordo male, e poi anche il Piemonte ha un indice basso. Sì, il caso della Campania è molto interessante, sì, perché anche su altri indici è, nella nostra analisi, la regione complessivamente peggiore d'Italia, sì, di quelle che vanno al voto, però è anche quella che nella legislatura ha fatto i progressi maggiori. Questo io lo trovo interessante perché alle volte tendiamo a pensare che più ci sono scandali in un posto, peggio le cose vadano, e non è sempre così meccanico. In fondo la Campania pare sia stata mal governata da Bassolino, però se consideriamo la condizione di partenza di 5 anni fa, è anche la regione che ha fatto più progressi di tutte come costi e deficit. Anche la Sicilia mi sembra che l'abbia migliorato molto il deficit, siamo a 237 milioni, no? Sì, partiva da un livello molto alto. Non è fra quelle che abbiamo analizzato perché non va al voto. Certo, il vostro rapporto è solo su quelle che vanno al voto. Terzo indicatore, chi ha saputo limitare la spesa, e cioè in media in Italia per ogni cittadino si spendono di sanità 1737 euro. Il primato spetta alla Lombardia, il primato virtuoso, se ho ben capito, sì, certo, 1600, chi spende meno, e qui arriviamo al dato che dicevo prima, cioè addirittura le regioni che spendono meno pro capite sono quelle che hanno i migliori indici sull'attrattività e quindi anche sulla soddisfazione, sul servizio reso, attenzione, incredibile. Comunque Lombardia è sotto la media, spende 1635, sotto la media sono anche le Marche e il Veneto 1680, e la Puglia, anche qui virtuosa, 1680. Vicino alla media nazionale, regioni che hanno comunque una ottima graduatoria sulla qualità dei servizi, e praticamente sono l'Emilia Toscana e il Piemonte, e valori negativi Liguria e Lazio. Allora, che cosa capiamo dall'andamento invece di chi ha saputo migliorare la spesa, professor Ricolfi? Anche qui capiamo che ci sono delle eccezioni, cioè abbiamo alcune regioni che effettivamente danno una qualità di servizi scadente, però sono anche sottofinanziate. Non è che tutte le regioni meridionali sono sovrafinanziate come si tende a pensare, tutte quelle settentrionali sono sottofinanziate. Se lei prende i dati delle regioni a statuto speciale, per esempio, che non vanno al voto, però noi li abbiamo analizzati, le regioni a statuto speciale spendono tantissimo. Se le prende il Trentino Alto Adige o la Valle d'Aosta, hanno dei livelli di spesa pro capite molto alti. I servizi sono buoni, certo, ma se uno fa un ragionamento di efficienza, l'efficienza non è alta perché spendono troppo. E poi appunto ci sono alcune regioni in generale piuttosto sottofinanziate nel mezzogiorno, tipicamente l'Abruzzo, la Campania, la Puglia. Quindi il quadro di un mezzogiorno che riceve troppe risorse non è tanto corretto. Cioè le spende male più che ricevene troppe? Esatto. È un problema di efficienza, di produttività, sì, non di eccesso di finanziamento. Sì, solo in alcuni casi abbiamo un eccesso di finanziamento. Così come dicevamo a livello nazionale, non è vero che noi spendiamo troppo rispetto alla Francia o altri paesi, spendiamo male, nel senso che se poi le regioni vanno in deficit c'è un problema di gestione. E poi ci sono casi eclatanti che ricorderemo dopo il meteo e la pubblicità. Professore Ricolfi, vorrei averla ancora per 5 minuti dopo il meteo per l'ultimo degli indicatori, appunto quello a cui lei faceva riferimento, il confronto fra costi e ricavi, cioè come si spende, mettiamola così, se fosse è un'azienda, è la sanità. Per cui questo è un dato importantissimo. 349-238-6666 per i vostri sms. Alcuni ascoltatori dicono: ma insomma, fate una trasmissione elettorale? No, non c'è il nome di un partito, di un politico. Si potrà parlare di un buco della sanità di 3 miliardi e 4 in un programma di economia? Secondo noi sì. 17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, in cui chiudiamo l'approfondimento sulla sanità e poi andiamo alle borse e alla banca e ai prestiti per gli extracomunitari. Devo dire che le borse hanno chiuso con un meno 0,3%, Milano invariata, Parigi e Francoforte, Londra meno 0,3%, anch'essa, l'America guadagna uno 0,3%. Allora, professor Luca Ricolfi, lei che, insomma, delle disparità anche tra nord e sud, sintetizza il suo libro in maniera un po' impropria, ne ha scritto appunto nella sua ultima pubblicazione Il sacco del nord, saggio sulla giustizia territoriale. Ultimo indicatore sulla sanità, al di là dei deficit, che sono un dato importante ma un po' così, un po' troppo aggregato, il confronto fra costi e ricavi e come si sono mosse le varie regioni anche qui tra il 2004 e il 2008. Ma il confronto fra costi e ricavi è poi quello che genera il deficit, sì. Per cui in realtà stiamo sempre girando intorno a questo. Mm-hmm. Io la cosa che vorrei osservare però è che spesso, anche oggi sul Sole 24 Ore, mm-hmm. i deficit vengono confrontati in termini aggregati, e questo va benissimo se uno si chiede quant'è lo squilibrio macroeconomico del paese, la sanità, certo, produce, però va meno bene se vogliamo valutare la virtuosità. Lì bisognerebbe dividere per abitante, allora scopriremo ad esempio ha ragione che alcune regioni tipo la Liguria magari non hanno un deficit enorme, però quando lo si calcola per abitante. Questo sale con, cioè, facciamo un esempio ancora più concreto: la Sardegna ha un deficit di 225 milioni di euro nel 2009, molto alto per abitante, ecco, e ha una popolazione che è nettamente più bassa del Veneto, che ce l'ha di 100 milioni, così come ce l'ha una popolazione nettamente più bassa della Puglia, che ha un deficit uguale, 282. Quello del Veneto, per esempio, non è grossissimo. No, pro capite, no. Alla popolazione. Allora il quadro cambia molto se si fa il calcolo per abitante. Questo solo volevo... Sì, e anche, va detto anche che tra Calabria e Sicilia, non per difendere i siciliani, ci mancherebbe, insomma, noi non difendiamo nessuno né accusiamo nessuno, però la Sicilia ha un deficit di 237 milioni, la Calabria di 204, non c'è proporzione tra le popolazioni. Esatto, ma infatti la cosa che mi colpisce è che quando si confrontano poi i deficit per abitante, le regioni che dovremmo mettere nel mirino non sono sempre le stesse che vengono considerate di solito. Ci sono alcune regioni di cui si parla poco, tipo la Sardegna, tipo la Calabria, tipo la Liguria, che sarebbero da monitorare molto attentamente. Anche la Puglia, per esempio, è peggiorata molto in questa legislatura. Aveva un bilancio sanitario in avanzo nella scorsa legislatura, adesso è peggiorato. Sì, così come abbiamo fatto notare che ci sono regioni, tipo la Liguria, che hanno un buon dato nonostante il deficit sull'attrattività della regione, che chi ha saputo limitare la spesa e anche a ridurre la spesa è stata anche la Puglia, ma anche il Lazio, insomma, per cui insomma ci sono, va letto tra le righe il rapporto, non basta dire tu sei in deficit. Detto ciò, quello che, professor Ricolfi, possiamo dire con certezza è che purtroppo non c'è nessun rapporto tra il deficit che tu imbarchi come regione e la qualità del servizio che offri. No, non c'è assolutamente nessun rapporto, anche dal punto di vista... forse c'è un rapporto inverso, possiamo dire. Questo non lo so, perché bisognerebbe fare i conti con i nuovi deficit. In passato c'era una relazione molto debole, tra l'altro non c'è nemmeno, a proposito degli ascoltatori, alcuna relazione fra il colore politico, ecco, anche questo è verissimo, dei servizi. Cioè è assolutamente indipendente da destra e sinistra. L'unica cosa che permette di prevedere abbastanza il livello di inefficienza, il deficit, eccetera, è la dimensione territoriale, ma a destra e a sinistra non c'entra assolutamente nulla. Abbiamo le due regioni più virtuose, Lombardia e Emilia-Romagna, Lombardia e Emilia, che sono una rossa e l'altra azzurra, e le due successive, che sono il Veneto e la Toscana, tale quale, quindi è un pareggio perfetto. Sì, ma anche le due peggiori, se posso dire, insomma, se mettiamo assieme Sicilia e Calabria, o facciamo Campania e Lazio, purtroppo lì, anche se c'è un miglioramento, ripeto, il deficit della Campania è migliorato, anche in Sicilia è migliorato, il Lazio c'era altissimo, 1,3 miliardi, ma se non ricordo male, professor Ricolfi, anche lì c'è stato un calo. No, facevo l'esempio di quelle grandi e virtuose, perché sono stabilmente, cioè da decenni, governate sempre dallo stesso parte politica. Allora è interessante vedere che dopo 20 anni di regioni rosse, 20 anni di governi bianchi di destra, il risultato è lo stesso, sono regioni che hanno un'ottima sanità. E lì c'entra più anche il controllo forse dei cittadini verso chi eleggono, insomma un po' di altre cose, non, e poi al sud anche la criminalità organizzata, inutile nascondersi dietro un dito. Possiamo dire che in questo abbiamo un atteggiamento bipartisan, uno dei pochi, no? Non è... Assolutamente. Se si governa male, si governa male da destra a sinistra, se si governa bene, si governa bene da destra a sinistra. Vabbè. Grazie al professor Luca Ricolfi, che appunto io vi consiglio anche di leggere il suo libro, perché lì si mette anche una parola abbastanza incisiva su tutte le dispute, quanti soldi spendiamo al nord per mantenere il sud e viceversa. Ribadiamo i concetti: i deficit non sono peggiorati complessivamente, in alcuni casi sono migliorati, e in secondo luogo, attenzione, il colore politico c'entra poco, l'attrattività delle regioni è cambiata, non spendiamo più della media europea in sanità, probabilmente lo spendiamo male, e non c'è nessun rapporto tra deficit, cioè tra bilancio e servizio offerto, come dimostrano alcuni casi eclatanti. Tanto lì volevate arrivare, insomma, qua ci sono, in questo paese ci sono 126 ospedali mai finiti, sono costati 8 miliardi di euro, hanno zero posti letti, chiaramente posti letto realizzati. 8 miliardi, una manovra finanziaria quasi. 34 sono in Sicilia, 22 ospedali mai finiti sono in Puglia, 10 nel Lazio, anche qui, bipartisan. 1 miliardo e 700 milioni il numero di apparecchi, di valore dei macchinari inutilizzati o sottoutilizzati. E le grandi apparecchiature mediche per milioni di abitanti. Questo è importantissimo perché ti dimostra quanto poi la spesa vada in prebenda all'andrangheta, alla mafia, alla camorra, oppure vada invece a comprare magari una nuova TAC, un nuovo macchinario costosissimo che la sanità privata non si può permettere, a meno che non far pagare il costo della prestazione a cifre folli. Allora, le grandi apparecchiature mediche per un milione di abitanti sono 7,4 in Emilia-Romagna, 6,8 in Lombardia, 3,5 in Campania e 4,5 in Calabria, a dimostrazione che con quei soldi, con quei deficit, non hanno comprato apparecchiature, non li hanno perlomeno investiti in qualcosa che serva ai cittadini. Se tutte le regioni si conformassero, diciamo, sui parametri delle regioni più efficienti, Lombardia ed Emilia-Romagna, lo Stato e complessivamente l'Italia risparmierebbe 11 miliardi di euro l'anno. Questa sì che è una manovra finanziaria, altro che poi incentivi per le lavastoviglie e i motorini. E poi casi eclatanti, così chiudiamo in bellezza e poi passiamo ai mercati. Allora, Piana di Gioia Tauro, 5 ospedali che forniscono prestazioni per 23 milioni di euro, ma sono riusciti a fare un buco da 50 milioni, cioè il 200% di quello che forniscono. A Vibo Valentia l'ospedale ha costi da 50 milioni di euro e ha un deficit di 26. Io non so come si è fatto a fare un deficit del 50% dei costi ogni anno. Tra le chicche, l'ospedale di Taurianova, 18 posti letto e 174 dipendenti, è una clinica svizzera praticamente, 10 dipendenti per ogni paziente, tutti a Taurianova. Il caso Locri del 2009 è arcinoto, l'ospedale pubblico ha 31 medici, 29 infermieri, 23 addetti alle pulizie che hanno un legame di vario genere con l'andrangheta, alcuni addirittura pregiudicati. Praticamente nella relazione della Commissione parlamentare antimafia sull'ospedale di Locri si legge, e cito testualmente così non vengo preso per pazzo: sembra incredibile, ma né la Guardia di Finanza né la Prefettura sono venute a capo di una situazione di profonda anomalia per cui un'azienda sanitaria In un'azienda sanitaria lo Stato non è riuscito a far luce sul numero di dipendenti, posto in organico, figura professionale che quel posto è destinato a ricoprire. Cioè lo Stato non riesce a sapere quanti sono i dipendenti dell'ASL. E però l'ASL ha pagato, sempre a Locri, alle strutture convenzionate 11 milioni 200 mila euro. Praticamente è come se ognuno dei 130 mila residenti nell'area avesse usufruito di 14 prestazioni l'anno. E poi i due casi che ci piace ricordare ogni tanto: la ASL di Reggio Calabria commissariata per infiltrazioni mafiose, i costi incredibilmente da quando è commissariata sono scesi del 50%. Tanto so che la volete già, scrivete al 349-238-6666. Vabbè, allora, la ASL di Reggio Calabria aveva debiti per 500 milioni, mezzo miliardo di euro, però pagava dei prezzi, diciamo, anche qui da clinica svizzera, per un pacco di cerotti da 20 euro si era arrivati a pagare, io rido perché sennò viene da piangere, si era arrivati a pagare 3.500 euro, per servivano 6 nuovi camici, ne hanno ordinati 2.008, non si sa mai, no? La Sicilia spende in medicinali il 37% più del Veneto, che ha lo stesso numero di abitanti, cioè quasi 4 medicinali su 10 in più per abitante. E poi chiudiamo con la Calabria, così siamo ecumenici. Allora, il doppio delle TAC in Calabria. Ora, io mi auguro che non sia un vero problema sanitario, perché insomma la salute prima di tutto, è chiaramente un furto. E tra l'altro, in rapporto a popolazione, il 60% di questi, dei calabresi, però le TAC le fa fuori dalla regione, quindi non si capisce come mai ce ne siano comunque in Calabria un numero doppio rispetto alla popolazione in media. Praticamente il sangue, il plasma, viene pagato in Calabria 4 volte più che nella media di altre regioni. Infine, il costo pro capite dei bambini negli asili nido. Qua sforiamo sulla scuola, ma volevo darvela come chicca finale. A Roma un bambino costa 16.000 euro, a Modena 7.000, ma notoriamente gli asili di Modena sono molto peggiori di quelli di Roma. Traffico e poi la borsa, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, parliamo adesso di borsa. Visto che ci sono molti messaggi, torneremo sulla sanità anche nella seconda ora del programma con un breve approfondimento. Attenzione, avete ragione quando dite che ma l'abbiamo ricordato che alcune regioni, la Puglia, la Sicilia, la Campania, hanno migliorato notevolmente il loro deficit. Il caso calabrese è un caso obiettivamente in questo momento forse il peggiore da tutti i punti di vista. E poi insomma, attenzione però, insomma, ai luoghi comuni. Questi sono dati, vi arriveremo nella seconda ora, meglio così, perché sennò andiamo troppo in là. Eleonora Micheli, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, leggermente negativa la giornata oggi in borsa, meno 0,3%. Vediamo anche di rispondere ad alcuni ascoltatori al 349-238-6666 per quello che riguarda la borsa. Devo dire che oggi a far più notizia è soprattutto l'euro. L'euro è molto debole nei confronti del franco svizzero, 1,4330, e a sua volta però abbiamo visto anche un dollaro indebolirsi moltissimo. C'è un po' di movimento sulle valute. Comunque, male le banche oggi, tranne una che è UbiBanca. Però Popolare Milano meno 1,80, Mediolanum meno 1,80, Generali meno 1,70, Intesa meno 1,2, come Monte dei Paschi. Devo dire Mediobanca meno 0,70%, Unicredito mi sembra invece che si sia mossa meglio, eccola qua, più 0,85%, e poi UbiBanca più 1,6. Banche. Sì, banche, come hai detto tu, oggi sono state abbastanza deboli nel complesso, questo peraltro non solo in Italia ma in Europa. Il sottoindice Stoxx 600 del comparto europeo ha perso lo 0,6%. Per quanto riguarda Piazza Affari, le UBI, come hai detto tu, si è messa in evidenza, è salita. Ricordiamo che venerdì scorso si è riunito il consiglio di amministrazione della banca per approvare il bilancio, che poi è stato comunicato alla comunità finanziaria sabato. La reazione del mercato quindi è stata oggi. I titoli sono stati premiati, visto che gli utili dell'istituto sono saliti da 69 a 270,1 milioni nel 2009, sono andati meglio di quanto si attendesse il mercato, e per questo c'è stata questa reazione così positiva. Invece sempre nel comparto bancario vale la pena segnalare che dopo il ribasso di venerdì scorso di oltre il 2% continuano a perdere colpi le Intesa San Paolo. Il mercato è rimasto un po' deluso dal cosiddetto utile normalizzato dell'istituto, che è sceso del 28% a 2,6 miliardi. Ancora sui titoli oggi, oltre ai casi bancari, appunto con queste due differenze, abbiamo dati che riguardano anche altri titoli, Geox più 2%, Campari più 1,25%, ma soprattutto il caso di Pirelli più 2,4%, il miglior titolo dell'S&P MIB. Esatto, Pirelli si è distinta, non ci sono voci o particolari notizie, si tratta di un movimento tecnico, è da più sedute che le azioni stanno continuando a recuperare punti, in particolare dal 26 febbraio che praticamente inanellano un rialzo dietro l'altro. Nel complesso dal 26 febbraio hanno registrato un guadagno di circa il 25%, peraltro si sono distinte anche in Europa, visto che le Goodyear sono rimaste al palo e le Michelin francesi hanno registrato un rialzo ma inferiore, ben inferiore a quello di Pirelli. Ancora sui titoli, tra l'altro andiamo anche sui migliori e peggiori in assoluto. Monte Fibre sia sulle ordinarie più 15,6% che sulle risparmi non convertibili più 22% è il miglior titolo. Che è successo a Monte Fibre? Perché insomma qui riguarda la vicenda di Marghera, non è solo borsa, ecco, mettiamola così. Esatto, allora innanzitutto facendo un passo indietro nei mesi scorsi la società è riuscita a ristrutturare i debiti con i propri creditori e poi successivamente ha presentato al Tribunale di Milano appunto l'accordo di ristrutturazione che è in attesa di essere omologato, ma intanto venerdì scorso a borsa chiusa è stato reso noto che la società ha venduto alle autorità aeroportuali di Venezia il porto di Marghera. Ora a questo punto l'operazione in verità deve attendere la condizio sine qua non che il Tribunale di Milano dia il via libera all'accordo di ristrutturazione. Mm-hmm. D'altra parte appunto un'operazione molto importante, è quella più importante, sì, prevista dal piano stesso di ristrutturazione, mm-hmm, dei debiti, e porterà nelle casse dell'azienda proprio nel bilancio 2010 ben 60 milioni di euro. Altro titolo, andiamo rapidi, più 4,3% Sorin. Qui c'è una due diligence, cioè un'analisi di come sono messi i conti che potrebbe aprire un varco sul futuro, prego. Sì, oggi infatti un consorzio formato da Intesa San Paolo, Ares Life, Essex Woodlands e Alpha Private Equity hanno richiesto appunto la due diligence per lanciare un'OPA. Il prezzo che verrà messo sul piatto è tra 1,4 e 1,55 euro, quindi i titoli si sono portati esattamente a metà della forchetta, 1,51, guadagnando il 4,27%. Giustamente ricordate al 349-238-6666 che oggi è uscita dall'S&P MIB Mondadori, è entrata Azimut, il titolo ha chiuso con un leggero calo, meno 0,21%, 9,66 euro. Grazie a Donna Michele, Radio Corriere, Sole 24 Ore. Adesso c'è il GR, poi torneremo anche a dare alcune risposte, perché molti di voi fanno notare, sì, ma ci sono extra tasse in Lombardia sulla sanità, molti ricorrono all'intramoenia, quindi ai ricoveri privati, lo diremo, però se già i soldi sono pochi e uno va anche a sforare i conti regionali, non se ne esce. E poi cosa fare? Alcuni dicono, a questo punto il federalismo al nord e i commissariamenti della sanità al sud, ma un po' drastico. IGR. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Arriveremo a quanto ci chiedono molti ascoltatori, e cioè dopo aver dato tutti i parametri, i conti, i numeri sul deficit sanitario, sulle regioni che l'hanno migliorato, sul rapporto tra costi e ricavi, sull'indice anche di soddisfazione degli abitanti e delle regioni, e anche sui travasi, chiamiamoli così, cioè tra quanti si spostano in un'altra regione per farsi curare, dovreste dare anche delle soluzioni. Arriveremo con le soluzioni, fermo restando che non è facilissimo, alcune soluzioni sono già previste dalla legge. Dico subito che le regioni sono obbligate poi a rientrare dai deficit aumentando le tasse per gli abitanti locali, in primo luogo purtroppo l'IRAP, che delle volte è un rimedio peggiore del male. Comunque arriveremo a questo, prima di tutto però vorrei raccontare di finanziamenti e quindi di crediti per le piccole attività, questa volta non sugli artigiani in senso lato, sui piccoli o sui commercianti, sui piccoli imprenditori, ma un'iniziativa dedicata proprio agli extracomunitari. Eh sì, respiriamo ogni tanto, perché quando si parla di sanità purtroppo il clima diventa pesante, soprattutto per alcune regioni. Insomma, oggi a Milano è stata inaugurata la prima filiale di una banca che è dedicata proprio ai cittadini immigrati. La banca si chiama Extrabanca, il primo azionista sono le assicurazioni generali che hanno il 12%, oltre alle generali ci sono anche la Fondazione Cariplo che ha il 4% e imprese private del nord centro Italia. E visto che nel nostro paese ci sono 4.300.000 stranieri, di cui 500.000 di seconda generazione, di cui il 35% nel nord ovest, cioè il 50% nel nord, il resto distribuito tra centro e sud, è immaginabile che una banca del genere nascesse proprio a Milano. Anche perché l'80% degli occupati, degli immigrati regolarmente occupati nel centro-nord fa l'operaio, contro il 35% degli italiani, e gestiscono il 10% degli esercizi pubblici, ma tra l'altro nelle grandi città il 40% dei nuovi bar e ristoranti aperti è stato aperto proprio da immigrati. E allora sentiamo gli obiettivi e anche l'operatività di questa banca alla voce del presidente Andrea Orlandini, intervistato dalla nostra Valentina Furlanetto. Gli immigrati sono già il 6% della popolazione italiana e secondo le proiezioni sono destinati a raddoppiare entro il 2025, quindi un trend importante che dura nel tempo. Secondo aspetto è la crescente capacità reddituale, perché man mano che si integrano nel tessuto sociale ed economico iniziano a svolgere lavori più qualificati e quindi più redditizi, come è successo un po' agli italiani quando sono emigrati 100 anni fa all'estero. Il vicepresidente di Extrabanca è un imprenditore di origine camerunense, Batioca. Quanto forte è la presenza di dipendenti stranieri in Extrabanca? Attualmente il 55% dei dipendenti sono appunto stranieri. Chi entrerà in filiale da noi troverà un contesto in cui si parlano 11 lingue. Non mi viene in mente nessun'altra banca in Italia dove accada una cosa di questo genere. La nostra sfida è quella di mettere insieme le 192 nazionalità che sono presenti a Milano, insomma, nella convinzione che siano accomunate dal destino, cioè siano tutti venuti alla ricerca di un futuro migliore che, a nostro parere, passa per la concessione del credito. Caritas calcola in poco più di 160.000 le imprese a Milano che sono condotte proprio da immigrati. Sono questi i clienti a cui fate riferimento? È una delle 5 aree di business che ci riproponiamo di avere. Di fatto la prima è quella che consideriamo proprio forse più importante, in quanto erogheremo sicuramente soldi nostri e si tratta appunto dei finanziamenti alle imprese, i cui titolari sono extracomunitari. Ci sono poi le rimesse. Le rimesse al paese d'origine, dove l'Italia rappresenta oggi il primo mercato in Europa e secondo al mondo dopo gli Stati Uniti. Ci sono i mutui immobiliari, per esempio nella regione Lombardia un atto notarile su 5 vede protagonista un immigrato, diciamo. Il credito al consumo e da ultimo vorrei credere anche nella gestione del risparmio, visto che il 15% del 9,1% di prodotto interno lordo che risulta dal loro prodotto sembra essere risparmiato, quindi avremo anche l'ambizione di intercettare questo risparmio, insomma. Quali sono, per chiudere, gli obiettivi che vi ponete? L'aspirazione sarebbe quella di riuscire ad aprire circa 50 sportelli in tutta Italia e nell'arco di 5 anni. E per quanto riguarda i clienti? Di avere circa 100.000 clienti per allora. Beh, ottima iniziativa a nostro avviso, comunque come altre che immagino ne seguiranno. Ripeto, gli azionisti sono il 12% dei generali, il 4% la Fondazione Cariplo e poi un 4% anche imprese private del nord centro Italia. E adesso invece torniamo a soffrire, almeno aspettiamo un po' dopo le informazioni per chi è in viaggio, torniamo a parlare di sanità. Alla luce da un lato dello spunto internazionale via libera alla riforma sanitaria di Obama, ma dall'altro alla luce dei dati riportati oggi in anteprima da Sole 24 Ore con cui abbiamo aperto il programma, il deficit continua a crescere, il rosso di 3,4 miliardi complessivamente nelle spese delle regioni per la sanità. Ripeto, le regioni utilizzano per la sanità in media l'80% del loro bilancio, è la voce principale che hanno tra le mansioni. Dopo il traffico parleremo anche delle possibili soluzioni che devono inevitabilmente essere di carattere amministrativo politico, non possono essere solo di carattere fiscale. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ultima parte di Focus Economia e rimedi possibili. A chi si fosse messo in collegamento, ricordo appunto i 3 miliardi e 400 milioni anticipati oggi da Sole 24 Ore di deficit della sanità italiana. Tutta la lunga intervista che abbiamo fatto con un sociologo, ci mancherebbe, come il professor Ricolfi, sugli indicatori al di là dei semplici soldi, quindi la capacità di essere attrattivi di alcune regioni rispetto ad altre, hanno più cittadini che vengono a curarsi lì di quanti vadano fuori. E anche lì restano in testa Lombardia e Emilia Romagna, ma con anche sviluppi interessanti. La soddisfazione dei singoli abitanti, anche qui troviamo che per esempio la Liguria, pur con un deficit, ha un alto tasso di soddisfazione. La capacità di ridurre i disavanzi, e qui abbiamo avuto qualche caso virtuoso, ripeto, la Campania, la Puglia, ma Campania e Sicilia soprattutto. E poi invece altri indicatori più economici classici come gli sprechi e quant'altro. Molti di voi ci hanno scritto: va bene, ma allora bisognerebbe commissariare le regioni in cui il deficit va oltre ogni previsione, anche perché, e questo l'abbiamo capito chiaramente, ci sono regioni più virtuose nel senso che sono riuscite a ridurre notevolmente questo deficit. Ma non c'è nessun rapporto, purtroppo, tra deficit sanitario di una regione e qualità del servizio. Anzi, possiamo dire che spesso è quasi l'opposto. Più sei virtuoso con i conti, come un bravo padre di famiglia o madre di famiglia, e più sei anche capace di dare offerta sanitaria e servizio sanitario. Più sfori con i conti, più tutto si sbraca. Adesso utilizziamo un altro indicatore per capire i rimedi possibili, che è un indicatore che viene usato anche per i paesi del terzo mondo, così stiamo tutti tranquilli. Per capire la civiltà di un paese, spesso l'ONU utilizza l'indice di mortalità infantile. Che come indicatore, diciamo, sulla sanità ci siamo, no? Mi sembra di poter tagliare la testa al toro con questo. Allora, alla luce di quanto abbiamo detto nella prima ora, vediamo qual è la mortalità infantile nelle regioni e se c'è un rapporto magari tra deficit sanitario e capacità di assistere i neonati, gli infanti. E invece non c'è nemmeno qui. O meglio, le regioni più virtuose finanziariamente sono quelle anche che hanno il tasso di mortalità infantile più basso. Lombardia 25 per 1000, ancora 25,8 il livello, poi la Val d'Aosta 9, 28 il Veneto, 23 il Friuli, 31 l'Emilia Romagna, 28 la Toscana, 28 l'Umbria, Lazio sale già a 40. Il tasso di mortalità infantile poi sale a 40 anche in Sicilia, è migliore in Sardegna a 31, in Puglia a 40 e poi la Calabria, quella che ha in proporzione anche agli abitanti il deficit più alto della sanità, ha un tasso al 54. Cioè muoiono il doppio di bambini rispetto, diciamo, a quello che è il dato della Lombardia, o 5 volte rispetto al dato della Valle d'Aosta. Allucinante. Professor Massimo Bordignon, buonasera. Buonasera a lei. Allora, questo dimostra una volta per tutte, è tutta la puntata che diamo dati sui costi, ricavi, qualità del servizio offerto, scandali sanitari, caso Locri, caso Gioia Tauro, caso Palermo. Insomma, qui non c'è nessun rapporto tra il deficit e la qualità del servizio. Secondo aspetto che molti ascoltatori chiedono al 349-238-6666, i rimedi. Allora, c'è già uno strumento in mano alle regioni, anzi sono obbligate. Dal 2006 le regioni che sfornano il tetto sanitario devono aumentare l'addizionale IRPEF e IRAP, cioè usano questi strumenti fiscali per ripianare il deficit. Non è servito, evidentemente, se come oggi il Sole 24 Ore denuncia, il deficit è rimasto, anzi è leggermente salito, a 3,4 miliardi. Le chiedo, cos'è il caso, diciamo, molti ascoltatori dicono, beh, mandate un commissario, ma è vero che spesso i commissari sono i presidenti della regione? Allora, distinguiamo un po' i due aspetti. Allora, il primo aspetto è la qualità dei servizi sanitari del sud, perché sono di livello così basso. Il secondo sono i meccanismi di controllo sui presidenti e gli amministratori locali. Due cose sono legate, ma non interamente. Sul secondo, ahimè, il suo telespettatore ha perfettamente ragione. Purtroppo c'è stata una deformazione della legge relativa che definisce il piano sulla salute e quindi gli interventi da parte del governo, tale per cui, per esempio, nell'ultimo incontro a ottobre i presidenti delle regioni sono riusciti a portare a casa il risultato che, qualora una regione deve subire un piano di rientro, venga addirittura commissariata, il commissario facente e quindi che ha maggiori poteri è il presidente della stessa regione. Quindi questa cosa è ovviamente una cosa. Cioè il malato che cura se stesso. Bravo, esattamente. Questa è una roba privata. Aveva senso quando è stato fatto la prima volta per il nel caso romano, perché quello che aveva sostituito il presidente, in pratica era stato fatto commissario Marrazzo, ma che aveva ereditato i debiti della giunta precedente. Allora, se c'è un presidente nuovo. Certo. Può giustamente dire, ma io sono appena arrivato, non ho fatto io questi debiti, quindi perché devi punire me? Non è insensato nei confronti di tutta una serie di presidenti, sto pensando a Bassolino, ma sto pensando a Loiero, sono stati lì 5-10 anni, se non di più, perché questo è chiaramente una distorsione. Tenga ecco, questo presente, lo dico, visto che siamo sotto molti video, politica in tutto. Allora, nel caso del Lazio c'era un presidente del centrodestra, Storace, è arrivato Marrazzo e c'era un deficit accumulato nella gestione precedente, governo centrodestra, poi governo centrosinistra. Nel caso della Campania e della Calabria stiamo parlando di governi del centrosinistra, così siamo tutti contenti. Prego. Sì, tenga anche presente che alle ultime elezioni, perché la battaglia era finita 13-2, quindi voglio dire, è chiaro che proporzionalmente i commissari tendono a essere presidente, certo. Del commissario devono stare per forza al centrosinistra, perché le regioni più o meno ce l'ha in mano il centrosinistra. Ma destra o sinistra che sia, c'è questo patto sulla sanità, i controlli da parte del centro, ci sono due elementi, diciamo così. Prima c'è una sorta di warning, come quello che fa la Commissione europea. Dice, stai attento che stai sforando i conti. Esatto. Poi? Quindi tu devi fare un piano di rientro, se non rispetti il piano di rientro, quel piano di rientro non mi convince, c'è una commissione tecnica, a questo punto sei commissariato. Con il commissariamento perdi ulteriori poteri, sei sotto il controllo e scattano tutta una serie di penalità. In particolare il commissariamento si punisce i cittadini in primo luogo, perché aumentano automaticamente tutte le aliquote e tutte le tariffe, e dopodiché nessuna decisione può essere presa dalla Giunta senza lo stampino da parte del Ministero della Sanità. Allora, e questo è chiaro, che insomma, se tu nomini commissario il Presidente della Regione, non che è appena entrato in carica ma che è lì, che ha gestito questo buco, parliamoci chiaro, chiedi al malato di curare se stesso o comunque non fai un'operazione trasparente. Il secondo aspetto, lei che cosa suggerisce? Perché abbiamo due minuti per andare anche alle altre soluzioni, oltre a quelle fiscali che hanno in parte funzionato ma in parte no, diciamola tutta. No. C'è il fallimento, il ministro Sacconi ha avanzato qualche settimana fa l'idea di un fallimento politico, cioè il politico che sfora il tetto, non sa gestire i conti, non può essere rieletto. Sono d'accordo, non solo sono d'accordo, ma lo rafforzerei ancora di più, perché il problema è vero. Allora, sulla qualità dei servizi sanitari al sud c'è un problema anche di storia, di incapacità gestionale che andrebbe corretta anche aiutandoli di più. Ci sono questi strumenti di affiancamento tra tecnici regionali del nord e quelli del sud, e queste ipotesi dovrebbero essere portate più avanti. Ma c'è anche un problema di fallimento del meccanismo proprio elettorale, cioè del meccanismo di incentivi perversi. Quindi è necessario correggerlo, il fallimento politico, che tra l'altro è previsto all'interno della legge delega sul federalismo fiscale, sarebbe un primo passo. Poi ce ne possono essere anche altri di passi, sul Sole 24 Ore, sulla Voce, eccetera, ho pubblicato anche l'idea di dire, beh, forse siccome quei quei presidenti di regioni sono comunque candidati regionali emessi dai partiti, i partiti a sua volta ricevono un sacco di soldi attraverso il finanziamento pubblico dei partiti, finto rimborso elettorale, sì. Forse sarebbe il caso ci stessero più attenti, un modo per farli diventare più attenti e punirli attraverso una riduzione dei rimborsi elettorali. Cioè lì bisogna rafforzare i meccanismi politici esterni al puro controllo elettorale per spingere verso una gestione più efficiente. Io aggiungo una cosa però, professore, se tra l'altro tu nomini il commissario, il presidente della regione che ha creato questo deficit, dai un messaggio agli elettori che tanto quelli sono intoccabili, per cui c'è un danno ulteriore anche d'immagine. Il secondo suo aspetto, cioè di ridurre i finanziamenti, che i partiti votino una riduzione dei finanziamenti pubblici ai partiti che hanno male amministrato la sanità di alcune regioni, a me sembra molto il tacchino che anticipa il Natale, quindi ci credo pochissimo. Comunque la ringrazio, grazie come sempre perché ha risposte concrete a Massimo Bordignone, uno dei massimi esperti, squadra gioco di parole in Italia, proprio di federalismo fiscale, e su questi temi si giocherà, lo dico subito, il federalismo fiscale vero e proprio. Allora, siamo in chiusura del programma, non posso rispondere a tutti i messaggi che sono arrivati al 349-238-6666. L'ultima cosa, è vero che sono aumentate le prestazioni private in Tremonaghi negli ultimi anni dell'80%, ma a maggior ragione, se i soldi vengono ridotti, se si riducono i medici, è un invito in più a mantenere l'efficienza delle strutture sanitarie. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.